Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Beh, anche Gloria Guerrero e Valerio Rocchetti si uniscono a me per iniziare con voi questa settimana, che poi sarà la settimana di Natale. E ci riteniamo fortunati per essere riusciti, dopo un anno e mezzo, ad avere con noi per questo cielo natalizio quest'anno una guida alla quale, diciamo così, aspiravamo da tempo. Benvenuto, Andrea Riccardi. Grazie. Dopo un anno. Dopo un anno. Beh, Andrea Riccardi, è inutile che ve lo presentiamo, come diciamo così, nello spirito della nostra trasmissione, vogliamo soprattutto affidarci a lui per questa piccola riflessione che ci introduce quest'anno al grande ciclo delle feste natalizie, un Natale molto speciale. Sì. Perché sembra così strano, in fondo, ai nostri contemporanei, quest'idea che si possa essere poveri a Natale. E beh, perché il Natale è diventato, forse unica delle feste cristiane, è diventato una festa talmente popolare, la festa dei consumi. Anche una festa in cui, un po' nell'orgia dei consumi, si dimentica che siamo poveracci, abbiamo problemi di bilancio, eccetera. Ora c'è una grande paura di fare il Natale in difficoltà, mentre io credo che forse anche ridurre un po' i consumi ci fa misurare con noi stessi, guardarci in faccia al pranzo di Natale, guardare meno il tacchino sul tavolo o i regali che arrivano e guardarci in faccia tra di noi. Beh, io spero che mia madre, 93 anni, faccia comunque trovare il capitone, appartengo alla scuola che disdegna i tacchini. Ma sai che ho saputo che tua madre quest'anno è in ristrettezze finanziarie, non te lo farà trovare, ti farà trovare una sogliola. Evviva, ci accontenteremo. Comunque, di Andrea Riccardi sappiamo tutti la sua esperienza tanti anni fa, quando non era molto popolare, diciamo così, riflettere sul cristianesimo. Molti l'hanno conosciuto grazie al suo manuale Storia del Cristianesimo, che segnò un po' il suo arrivo da Milano a Bari. Da Bari a Roma. Ma io manuali non ne ho mai fatti, libri di storia sì, su tanti angoli del cristianesimo nel Novecento, angoli romani e angoli del mondo. Eppure da quell'esperienza è iniziato un cammino che vi ha portato ad essere testimoni di un qualcosa che ancora oggi, tutto sommato, si traduce in una visione ottimistica, sì, del mondo. A me sembra un po' strano che poi in realtà, diciamo, il pensiero dominante ci accusa di essere, come credenti, dei bacchettoni pessimisti. In realtà poi nel vissuto quotidiano i credenti sembrano essere rimasti gli unici ottimisti di, sì, questa storia. Sì, questo è vero. La comunità di Sant'Egidio, a cui è un po' legato la mia vita dal 68 in poi, è nata proprio negli angoli un po' difficili di Roma, degli anni 60 e 70, le periferie, le borgate, i poveri, però con un atteggiamento di speranza, cioè che ci sono mondi anche estremi in cui si può fare qualche cosa. Io sono d'accordo con quello che dici. Noi non siamo dei pessimisti bacchettoni che dicono che il passato era sempre meglio. Ma c'è uno sguardo che nasce non solo dalla fede, ma anche dal vissuto, dai rapporti umani, dalla solidarietà con gli altri, che ci fa guardare il futuro con speranza. Quindi sostanzialmente in modo ottimista. Non vuoi dire ottimista? Di realista. Perché il pessimista non guarda in faccia agli altri come sono la realtà. Sì, ma infatti mi sono sempre strane le ultime parole, o le prime parole, nel contesto, poi dipende da come uno se lo prende integralmente nella parte pubblicata, il testamento di Paolo VI, che, diciamo così, fa scendere la benedizione del Papa Morente su un mondo che lui definisce uno scenario grandioso. Forse, diciamo così, era questo il grande insegnamento che ha saputo consegnarci in un cammino che poi, all'interno di tante situazioni, a volte, diciamo così, non appare sempre molto evidente. Per esempio, di tanto in tanto chiedo a qualcuno: la battaglia contro la pena di morte, chi la conduce? Si è parlato spesso in questi giorni delle chiusure vaticane in sede ONU per trattati e trattatelli su... quasi nessuno sa che è stata inizialmente, per buona parte, chi ha raccolto i milioni di firme nel mondo è stato Sant'Egidio. Sì, io ti ringrazio di averlo ricordato, perché non si tratta solo di una battaglia mediatica per occupare le prime pagine e dire noi siamo riusciti, ma si tratta di un grande sforzo, la raccolta di firme, per far aumentare la cultura della vita. Io vengo ora da un viaggio in Africa, sono stato in Guinea Conakry, un paese ricco e povero, cioè ci sono tante ricchezze, ma è un paese miserabile da tanti punti di vista, e sono stato in Costa d'Avorio, un paese instabile politicamente. E i nostri, perché le comunità di Sant'Egidio vivono in Africa, noi siamo in più di 20 paesi, vivono africani, fanno sta battaglia sulla pena di morte. Interessante con i musulmani, cercando di coinvolgerli, ma anche per loro la battaglia sulla pena di morte è anche la battaglia con la nuova pena di morte che si sta affermando in Africa, che è il linciaggio. E quindi è interessante dire che questo discorso sulla pena di morte ha un valore e un significato. E poi siamo noi credenti che la facciamo, ora non esclusivamente noi, però la facciamo anche a un livello di educare la gente a rispettare la vita. In Africa, per esempio, io sono rimasto colpito, e lo vedo anche attraverso i miei amici di Sant'Egidio che mi portano a contatto con tante realtà, cioè non è un viaggio di Sheraton in Sheraton, ma è un viaggio un po' nella realtà. Io vedo come c'è una crescita di aggressività. Io sono preoccupato, se ti dico, in questo mondo contemporaneo, della crescita di violenza, che non è più la violenza degli anni 80 o anche anni 90 delle guerriglie. Tu lo sai che noi abbiamo lavorato per la pace in Africa, in Mozambico, governo, mettere d'accordo governo guerriglia, una guerra che ha fatto 1 milione di morti, e Sant'Egidio è stato mediatore. Ma ora io vedo che, come dire, è una violenza diffusa, una violenza che nasce in un mondo aggressivo. Allora è facile chiudersi nel pessimismo, che è il pessimismo delle case murate, di chiudersi in se stessi, dei vigilantes, eccetera. Poi capirai dov'è che ti voglio portare, perché poi in realtà io ci aggiungerei anche il fatto che sembra che il mondo sarà salvato da AIDS grazie ai divi del rock and roll che fanno concerti e vanno in televisione magari a fare Teleton. Non passa l'idea che, diciamo, i contrabbandieri degli antivirali dalla famosa Sipra indiana verso l'Africa sono stati Sant'Egidio e poi quelli dell'Opus Dei, e che Nelson Mandela, che viene tanto cantato e decantato, stava per essere condannato perché aveva appoggiato questo aggiramento della legge dei brevetti, sposando quasi un pochettino questa logica, che poi invece non viene assolutamente cantata sui palchi del rock, perché lì poi metterebbe in crisi lo show business e il sistema di sponsorizzazioni. Allora la domanda è: pena di morte, ma i credenti fanno veramente bene a stare sempre dentro l'umiltà della grotta di Betlemme? Non dovrebbero di tanto in tanto mettersi anche in cima alla capanna e, come l'angelo, prendere la tromba e cominciare a suonare? È sempre un'immagine biblica, quindi sarebbe lecito. Ma io credo innanzitutto, quando suoni ti dicono che vuoi suonare la tromba su quello che fai, ma questo non importa, perché se stai zitto ti criticano perché stai zitto, se parli perché dice vendi troppo. Io direi che c'è anche una certa assurdità. Guarda, io, visto che siamo in questa conversazione fra di noi, anche se in presenza di tanta gente, però io la sento così, e io ti voglio dire anche le difficoltà. Cioè, io sono molto orgoglioso di questo lavoro che noi facciamo, 40.000 malati di AIDS curati in Africa. Sono passato al nostro centro a Conakry, dicevano grazie. Grazie perché hanno avuto l'esperienza vera. Io non ho mai capito bene cos'è la resurrezione se non come me l'ha spiegato un malato di AIDS. Cioè il malato di AIDS mi ha detto: io ero morto, mi sono trascinato, sono arrivato al centro, mi hanno cominciato a curare, ora sto bene, ora vivo, ora potrò vivere. Quindi ecco, esperienza molto bella, ma due grosse difficoltà. Una è, diciamo, comunicare questo, diciamo suonare la tromba, e la seconda, che oggi mi preoccupa molto e te la confido proprio per Natale, è che ho la sensazione che anche gli aiuti, per esempio dall'Europa o dalle organizzazioni internazionali, vengano per una volta, per una catastrofe, se vuoi fare un ponte, se vuoi fare una cosa, però non debbono durare. Invece, se noi vogliamo aiutare i malati di AIDS e se noi vogliamo farli vivere, noi dobbiamo come adottarli, perché non è che un malato di AIDS lo puoi curare per 2 anni e poi lo fai morire, lo devi curare per la vita. Qui allora c'ho il problema della fedeltà. Sì, io do i soldi per l'uragano X, eccetera, eccetera, ma sono disposto io a finanziare una certa opera per un lungo periodo? Qui non c'è solo il privato, qui c'è anche una cultura internazionale. Si parla di exit strategy nei confronti di tante situazioni africane e su questo io vorrei un po' suonare la tromba. Vorrei dire per esempio che il nostro sforzo per l'AIDS, che è quasi fatto tutto da personale africano, gli europei sono pochissimi, ha bisogno di un sostegno di lungo periodo. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Andrea Riccardi, la nostra guida questa settimana. Andrea che non scrive manuali di storia ma racconta la storia e ci sta raccontando una storia che ci coinvolge in questa settimana di Natale, perché stavamo discutendo di una struttura antropologica molto importante che è, diciamo così, riassunta dalla parola dono. Un dono che è orientato verso una sostanziale uguaglianza di tutte le persone dell'umanità, è un dono che non solo sta nelle mani ma soprattutto nel cuore. Però Andrea, diciamocelo però, perché nel grande sistema dei rapporti nord e sud e anche questa, diciamo, quasi ossessione a volte, anche molesta, dell'umanitarismo, perché quando poi si vedono addirittura organizzazioni commerciali che scoprono l'umanitarismo, qualcuno, diciamo, si può anche sorridere e apprende per esempio che stiamo parlando di organizzazioni internazionali, cose serie, hanno spese di gestione del 70%, per cui se do 100 euro, 70 servono per gli stipendi degli operatori. Uno si chiede, ma finalmente a chi sto facendo io il dono? Quanto costa un'operazione di Sant'Egidio, mediamente, come spese di gestione? Guarda, noi come spese di gestione di base, soprattutto in Europa, non andiamo più del 3%. Noi abbiamo ricevuto qualche anno fa il premio Balzan per la pace, il premio che ha avuto Papa Giovanni, diciamo, che è stato un grande onore. Sì, è il premio Carlo Magno quest'anno ad Andrea Riccardi, pure... il Papa aveva ricevuto il premio Carlo Magno l'anno scorso, credo, 2 anni fa. L'ha ricevuto Ciampi. Ah, l'ha ricevuto Ciampi. E non lo so se l'ha ricevuto il Papa, non mi sembra. E, però la cosa, l'abbiamo ricevuto, che è un premio cospicuo, quello Balzan, e ci abbiamo fatto il laboratorio per le analisi cliniche a Conakry. Cioè, tu toccavi un punto. Si potrebbe dire che c'è un dono peloso, cioè un dono che ritorna a noi. Tanto spesso le operazioni nel sud del mondo sono operazioni di ritorno. Ma c'è un discorso sul dono più profondo e qui tocchi un po' il cuore di Sant'Egidio e di quell'ottimismo di cui tu parlavi. Ma non nel senso che noi siamo i migliori del mondo, siamo come tutti, più o meno, nella media degli esseri umani, ma l'esperienza della gioia e anche della fecondità della vita è quella del donare. Ho sempre in mente l'immagine evangelica del giovane ricco che andò da Gesù e gli disse: cosa devo fare per avere la vita eterna? E gli rispose: bene, Gesù gli disse: dai i tuoi beni. E lui se ne andò triste. Ho sempre pensato, fin da ragazzo, fino a quando noi andavamo nella borgata romana a lavorare con i bambini, che c'è una tristezza, ci sono differenti tristezze, ma c'è una tristezza del non dare agli altri, perché dare è anche investire sugli altri, è un fatto di fiducia. E invece una frase di Gesù, che non è nel Vangelo ma negli Atti degli Apostoli, a cui io sono tanto affezionato, è: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Sì, 15 giorni fa la Banca Mondiale ha rivelato un dato che io trovo sconvolgente, cioè calcolando a 600 milioni di immigrati costretti quindi a lasciare il proprio paese di origine per andare all'estero, e calcolando le loro rimesse, risulta che gli immigrati danno ai loro paesi di origine 2,5 volte la somma degli aiuti globali, che vuol dire che i poveri, se messi in condizione, sono capaci di aiutarsi benissimo tra di loro. Forse io farei notare anche questo, cioè che si dice Sant'Egidio e si pensa a Trastevere, perché poi per tante semplificazioni... L'ONU di Trastevere. L'ONU, no? Di Trastevere e tante altre cose. Per tante semplificazioni, a mangiare la pizza all'ombra di Santa Maria di Trastevere ci siamo andati tutti. Però Sant'Egidio è soprattutto l'africano che sta in Africa e dirige e anima il laboratorio di Conakry. Sono dei poveri che diventano protagonisti. Guarda, una frase che mi ha molto colpito di un ragazzo nostro africano che mi disse: uno non è mai tanto povero da non poter aiutare un povero, perché in fondo noi ai poveri vogliamo togliergli la generosità, vogliamo togliergli la capacità di dono, e scopriamo che i poveri, soprattutto se non isolati e marginalizzati, se incoraggiati, se in una rete, hanno la capacità di donare. E questa cosa che tu citavi delle rimesse agli immigrati è vera, e poi quelli sono soldi che vanno 100% alla gente, alla realtà, perché c'è un faccia a faccia. Io credo che uno dei grandi problemi dei poveri è isolarli, spingere ai margini, togliere loro il diritto a essere umani. Quando facciamo il pranzo di Natale, e tutti conoscono questo pranzo di Natale che facciamo a Santa Maria in Trastevere, perché è bella, ma lo facciamo in tanti, tanti posti del mondo, da Cuba all'Africa, all'Indonesia, eccetera, alla periferia delle città europee. La cosa più commovente è che i poveri che si siedono a tavola non solo mangiano, per quello basterebbe una mensa qualsiasi o un cartone con i panini, ma ricevono un regalo personalizzato. E la cosa che mi stupisce è che molti abituè si presentano con il regalo. Cioè, bisogna innestare, diciamo, un processo virtuoso in questo senso, e allora non solo i poveri aspetteranno, ma i poveri daranno. Sì, ma infatti riflettevo, perché poi in realtà sono dei tempi in cui sembra quasi, diciamo così, un'eccentricità sentire un cardinale che dice: oh, attenzione, che io i luoghi di culto, anche se non sono cristiani, mi piacerebbe vederli in ogni quartiere di Milano. E si sentono poi identità anche motivate, almeno a parole, religiosamente, rovesciare tante cose che poi ognuno le giudica come vuole, ma poi in realtà sono tanti muri che vengono eretti. E si dimentica che ci sono realtà integrate dove poveri danno, poveri ricevono e poveri distribuiscono. C'è una realtà come Sant'Egidio, in realtà, in fondo, anticipa già forse una società come dovrebbe essere, quella globalizzata. Sono semi di speranza. No, ti ringrazio, perché io credo che la società del dono e dall'altra la società del dialogo. Mi sembra che volevi alludere anche a questo. Del resto il dialogo è dono di parole, dono d'amicizia, dono di conoscenza. Sia una società non confusa, cosmopolita, senza identità, perché non ci può essere generosità e dialogo se non c'è un'identità profonda. Ma la vera identità profonda non è mai un'identità contro. Se io sono cristiano, non è che sono cristiano perché non sono musulmano o ce l'ho con i musulmani. I muri nascono in identità deboli, incerte e paurose. Per questo bisogna di fare il muro e riempirlo di simboli. E io penso al discorso dei ponti. I ponti sono tra due mondi, però i ponti uniscono. I muri tante volte sono lo stesso. Io ho la sensazione qualche volta che siamo tutti dannatamente uguali, e per questo abbiamo bisogno di distinguerci e di combatterci. Sì, no, perché spesso e volentieri, appunto, anche poi intorno al Natale, si costruiscono tanti tentativi di discorso, tutti centrati sul fatto che questo mondo è un amalgama di problemi terribili come fame, peste e carestia, insomma, cose terrificanti. Ma questo mondo è anche un amalgama di persone che riescono a camminare insieme. Esatto, se noi facessimo un po' più di silenzio in mezzo a tanti rumori e provassimo un po' più a vedere, ad ascoltare, forse il Natale è un bambino che nasce. Se noi urliamo non sentiamo il pianto di questo bambino che nasce, ma ci sono tanti elementi positivi, tante voci positive, belle, umane, io vorrei dire positive in questo senso, che forse dovremmo far emergere, sono i semi della speranza. Vabbè, siccome voi, io non riesco mai a essere ipocrita, lo voglio dire apertamente, cioè è sotto Natale, se volete pensare, come stiamo tentando di dirci tra di noi, visto che lo crediamo, che dentro la grotta di Betlemme gli unici due pacchi dono che gli angeli hanno deposto è appunto il dono della condivisione e dei beni e della parola, è il dono della fraternità. Se volete, diciamo così, essere garantiti che quello che date dalla vostra povertà giunga attraverso un cammino fatto da altri poveri, ad altri poveri che hanno veramente bisogno, senza perdere spese di gestione che possono arrivare fino al 70%, ricordatevi che l'AIDS viene anche combattuto con un progetto che si chiama Dream, che Sant'Egidio si autofinanzia attraverso donazioni minime, che è fatto anche di grandi atti di ribellione, perché contro la legge dei brevetti si riesce a comprare gli antivirali copiati in India da una benemerita società piratesca che si chiama Cipra, e che noi ringraziamo per Natale perché è nel cuore di tutti noi. E se solamente riuscite a immaginare la bellezza di un bambino africano che nasce sieropositivo, viene restituito alla vita con delle spese che sono abbordabilissime, e che questo viene fatto non attraverso i parrucconi di turno, ma attraverso le mani fraterne che ricevono il vostro dono e lo ridistribuiscono con la stessa fraternità dentro un mondo, una comunità integrata dove bianco, nero e giallo non ha nessuna differenza. Andrea, grazie. Grandi auguri ai nostri ascoltatori. Allora, buon Natale, e con molta speranza e molto ottimismo, e contento di questa conversazione, perché non è stato niente di formale, ma una conversazione fra amici alla finestra con quante migliaia di persone che ascoltano, a cui faccio tanti auguri. E a cui certamente sappiamo va il nostro augurio di bene, e siamo altrettanto convinti che verso di noi giungerà il loro augurio di bene. Quindi grazie, auguri a tutti, grazie. A risentirci. Grazie Andrea.